Mio padre non mi ha mai spinto a fare una cosa precisa, però non mi ha mai nemmeno detto che quello che facevo era sbagliato. Mi ha insegnato a pescare, a mettermi i cerotti sulle ginocchia, a giocare a pallone e ad accendere un fuoco. Io non so se saprei fare il papà, ma forse basta essere una persona normale. Io sono qui. Io sono qui. Di Matteo Caccia. Sono le 16:06, questa è Radio 24. Io non sono Sebastiano Barisoni, sono Matteo Caccia e sono qui. Si fugge da un sacco di cose. Si fugge dalle responsabilità, dai lavori opprimenti, dalle relazioni, dai pensieri cattivi. Si fugge dalle paure e dalle ossessioni, dai desideri e dagli anni che passano. Si fugge dalla scuola, dal posto di lavoro, dalle vacanze. E poi capita a volte di fuggire da delle persone, di fuggire da un gruppo. Un gruppo di persone del quale facciamo parte, ma di cui ci siamo stufati. Un gruppo in cui siamo entrati consapevolmente, ma da cui non sappiamo più come uscire. Gruppi sportivi, politici, ricreativi, gruppi musicali, massonici, ecclesiastici. Ordini professionali, circoli del golf, del tennis, della vela. Ho letto che ci sono degli scoiattoli in America del Nord. Sono degli scoiattoli che vivono in gruppo per tutta la vita. È una cosa strana, perché di solito loro vivono da soli o in coppia per lo più. Questi invece vivono come in un branco, per anni. Poi un giorno, uno di loro esce dal gruppo. Lo fa da un momento all'altro, senza alcun preavviso e apparentemente senza nessuna ragione. Questo però sballa totalmente gli equilibri nel gruppo di scoiattoli, al punto che, dopo poco tempo, il gruppo si sfalda. Alcuni, di solito i più forti, riescono ad entrare in altri piccoli branchi e altri invece continuano a vivere da soli, per tutta la vita, per tutta la loro vita di scoiattoli, da soli. C'è chi dice che uscire da un gruppo sia sintomo di emancipazione, chi invece sostiene che l'emancipazione stia nella condivisione. Io non so che cosa significhi uscire da un gruppo, so che nella mia vita però più volte ci sono entrato e poi ci sono uscito. E tutti prima o poi hanno provato quella sensazione lì, quella di esasperazione prima quando si sta dentro e di libertà poi, immediatamente dopo quando si è usciti. Ecco, qualsiasi sia il gruppo da cui voi siete usciti e volete raccontarmelo, io sono qui. Mi guardo intorno in questa stanza e vedo tanto coraggio e questo mi dà forza. Noi ci diamo forza l'un l'altro. È il momento del faccia a faccia, perciò ora noi tutti seguiamo il buon esempio di Thomas e sfoghiamo liberamente le nostre emozioni. Sceglietevi un compagno, per favore. Fu così che conobbi il bestione. Dai. Mi chiamo Bob. Bob? Sì. Bob aveva delle gran tettone. Quello era un gruppo di sostegno per uomini col cancro ai testicoli. Il bestione che mi stava sbavando tutto era Bob. Siamo ancora uomini. Sì, siamo uomini. Sì, siamo uomini. 800240024 per chiamare in diretta, oppure 349-238-6666 per mandare un sms. Quello di Fight Club era un gruppo di sostegno, mi pare che poi lui ne frequenti diversi di gruppi di sostegno. Ho visto l'altra sera un film uguale, un film tratto da un romanzo di Palahniuk che è Soffocare, l'ho visto per caso di notte, e c'è la stessa roba, è fissato con i gruppi di sostegno lui. C'è questo che per sopravvivere fa finta, ingoia ai ristoranti la roba, si auto soffoca e poi viene aiutato a sopravvivere e le persone che lo aiutano e che lo salvano diventano tipo dei tutori, gli vogliono bene e lo sostengono. È un film assurdo e comunque lui frequenta anche lì dei gruppi di supporto. 800240024, magari era un gruppo di supporto quello da cui siete usciti, o magari no, magari erano gruppi come nel caso di Filippo. A 16 anni, trascinato con l'inganno dal mio insegnante di religione del liceo, mi ritrovo in una vacanza estiva di GS, che sarebbe, l'ho scoperto là, Movimento Giovanile di Comunione e Liberazione. La settimana in montagna ovviamente me la sono passata bene, ma una volta tornata a casa ero ormai invischiato ed è stata molto dura riuscire a fuggire. 349-238-6666. Danilo, ai tempi dell'università ero entrato nel gruppo dei figli dei farmacisti, che non capisco se è un gruppo ufficiale o semplicemente ufficioso. Mi ero inserito io, praticamente figlio di nessuno, e sono scappato via per pazzo. Cosa vuol dire? Boh, perché mi sono sentito un pazzo forse. Alessandra, il gruppo della parrocchia del paese dove vivo. Giordano, mollo sempre le band, in questo caso band musicali, prima che affondino, come i topi nelle barche, un po' come il caso di John Frusciante, da cui sarà tratto il film Jack Frusciante. è uscito dal gruppo. Anche se John Frusciante in realtà non ha abbandonato il gruppo prima che affondasse, ma l'ha abbandonato proprio all'apice totale, durante una tournée, mi pare. Non so, queste robe le dico che me l'ha dette Viola. Io non li conosco bene, i Red Hot Chili Peppers. Era John Frusciante nel 1985. No, aspetta un attimo. Ce l'ho, ragazzi, state lì, state lì. State lì, andiamo pure, grazie Sebastiano. Eccolo qua, un fatto realmente accaduto nel 1992. John Frusciante, chitarrista dei Hot Chili Peppers, lascia inaspettatamente il gruppo durante una tournée all'apice della loro popolarità. Grazie Viola, ringraziamo Viola, di cui oggi è anche il onomastico. Il onomastico, l'abbiamo scoperto oggi che è il tuo onomastico, Viola. Ce l'ha detto un prete che è un amico su Facebook. Che è una frase che sembrava non esistere prima di 3 anni fa. E invece abbiamo un prete amico su Facebook. 800240024, qualsiasi sia il gruppo da cui siete uscito. Massimo, ritrovati dopo 40 anni, i compagni delle elementari. Già Massimo, dopo 40 anni, mi domando perché tu abbia voluto cercarli, compagni delle elementari. La cena più triste della mia vita, me ne sono tornato a casa con l'unico amico che ancora frequento in silenzio. Vitaliano, io ho fatto parte dell'AIA, Associazione Italiana Arbitri. 2 anni e ho lasciato per incompatibilità. Tutto questo qualche anno prima di Calciopoli, ma l'ambiente già allora non mi sembrava pulitissimo. Aia, non entriamo nel merito, che poi arriva Garanzini e ci fa la pelle a tutti. Elisa, il mio gruppo con cui ci trovavamo tutte le sere per giocare almeno per 2 ore a Dungeons and Dragons, che sono giochi di ruolo, giusto? Sono scappata perché altrimenti sarebbe stata troppo tardi per uscirne. Adesso non giocano più. Ricordiamo, per chi non la conoscesse, che Elisa è quella che scrive i romanzi fantasy. Il lungo inverno di Saffron. Grazie Elisa. 800240024 349-238-6666. Perché si parla di gruppi oggi, di gruppi da cui sfuggire? Per questo motivo qui. Sapete quando c'è qualcosa che vi disturba, però non sapete cosa sia, e non lo sapete finché non finisce? Tipo un leggerissimo cerchio alla testa, che nemmeno ve ne accorgete. Però quando passa, state da Dio. E quindi capite, ecco cos'era che mi faceva essere di cattivo umore. Oppure un ronzio di sottofondo, che percepite solo quando non c'è più. Ecco, ieri sera, prima di cena, saranno state 7:00. Ero seduto sul divano in silenzio a pensare. Sì, che sembra strano che lo faccia, però ogni tanto capita. Ecco, ero seduto lì e mi sono accorto che c'era un fastidio. Parole, un brusio. Però la radio e la TV erano spente, le finestre erano chiuse. Il fatto è che c'erano ospiti dal mio vicino, lo psicologo, e chiacchieravano, ma tipo una festa. Allora ho allungato l'orecchio e ho capito subito, dal tono sovraccitato. Era una terapia di gruppo, e probabilmente era anche la prima seduta. La prima seduta di una terapia di gruppo io la conosco, perché qualche tempo fa ci avevo provato anch'io, e sono scappato dopo una settimana. Perché mi sembrava di stare in un branco di matti. E allora voleva dire che forse io di quello non avevo bisogno. Era solo un periodo in cui ero un po' triste. Insomma, così l'ho letta e poi è passato. Però mi ricordo bene l'idea di dover andare a risolvere tutti i propri problemi in fretta, in un'ora, vomitando all'istante tutte le riflessioni di anni fatte su se stessi, come se bastasse quello per stare meglio. Però iniziare una cosa nuova è sempre eccitante. Qualsiasi cosa. Se poi è insieme ad altre persone e hai anche pagato, allora ci sono tutti gli ingredienti per avere un sacco di energia. Beh, come sapete, ha avuto il primo figlio la scorsa settimana. Una femmina. Col suo nuovo marito. Sono felice per lei. Perché se lo merita. Amici, ringraziamo Thomas per aver condiviso i suoi pensieri con noi. Grazie Thomas. Ecco, proprio come quelli lì di là dal muro, quelli dello psicologo. Ovviamente, manco a dirlo, non ho potuto fare a meno di ascoltarli. La seduta è durata dalle 7 alle 8 e il dottore non ha praticamente mai preso la parola. Non so quanti fossero i partecipanti, ma non meno di 6, direi 7. Ognuno ha ritenuto necessario presentarsi con nome, età, lavoro e disturbo per il quale aveva pensato di avere bisogno di una psicoterapia di gruppo. Il tutto si svolgeva in una specie di autogestione, tanto che mi sono chiesto se il dottore fosse presente o semplicemente avesse affittato la sua stanza per una riunione di persone che lui stesso non avrebbe mai conosciuto. Dunque c'era Claudio, filosofo mancato, già professore all'Università di Torino, ora venduto all'industria dell'editoria, uso parole sue, dove, pur essendo comunista convinto, dirigeva un settore strategico nell'area marketing, con quasi 90 persone sotto di sé. Poi c'era Roberta, psicologa, sicuramente bella, perché quando parlava lei c'era molto silenzio. E poi Marco, insegnante omosessuale che a differenza degli altri usava termini molto tecnici, parlava di Edipo, ma altri personaggi greci. Poi c'era Luisa, assistente sociale, scontenta perché non è diventata il direttore del centro per cui lavora, arrabbiatissima per non essere riuscita ancora ad avere un figlio. Quindi Daniele, commercialista, nervosissimo, si sentiva dal tono della voce che stava leggendo un fogliettino in cui elencava tutte le malefatte dell'ex moglie. E poi c'era Alessandra, una scultrice di 30 anni che viveva con il suo maestro di 60 in una valle sperduta della Lombardia. Insomma, in mezz'ora tutti si erano presentati. Nella mezz'ora rimanente, tutti avrebbero deciso come curarsi. Poverini, ho pensato, non sanno che la psicoterapia è una cosa lunga. E non sanno nemmeno che tutto ciò che stanno dicendo è assolutamente inutile. Perché il ragionamento non serve a nulla in quelle cose. Sono solo le azioni e le emozioni ad avere qualche senso. Comunque, in pochi minuti Claudio ha detto che doveva risolvere il suo problema con l'autorità, che aveva mandato a quel paese troppa gente, e che ora, pur di evitare di farlo, si era messo a fare il capo lui stesso. Così poteva comandare lui, invece che altri deficienti. Diceva che era un problema con suo padre. Roberta, la psicologa, ha detto che doveva piantarla di andare in giro e finire con il primo che capitava, bastava che fosse gentile con lei. Era un problema con suo padre. Comunque fosse, sentivo che mentre parlava, nel dubbio, tutti gli uomini erano molto gentili. Marco ha detto che suo padre lo portava a sparare al poligono di tiro e lui invece preferiva giocare con le bambole. Luisa era figlia di uno scienziato famosissimo e sapeva che non l'avrebbe mai superato. E nemmeno lui si sarebbe mai accorto di lei, perché guardava sempre nel microscopio. Daniele invece odiava le donne, ma anche i falegnami e San Giuseppe. Alessandra si sentiva umiliata dal fatto di stare con un uomo di 30 anni più grande di lei, che assomigliava tremendamente a chi? A suo padre. Ecco, allora lì ho ripensato al mio, di papà. E mi è venuta voglia di chiamarlo e di salutarlo, perché non era uno scienziato, ma non era nemmeno un cretino. Non era ingombrante, ma nemmeno sempre in mezzo alle scatole. Mio padre non mi ha mai spinto a fare una cosa precisa, non mi ha mai nemmeno detto che quello che facevo era sbagliato. Mi ha insegnato a pescare, a mettermi i cerotti sulle ginocchia e a giocare a pallone. Ah, e anche ad accendere un fuoco. Io non so se saprei fare il papà, ma forse basta essere una persona normale. Comunque è stato interessante ascoltarli, quei 7 disperati che pensavano di sapere tutto. Anche perché verso la fine c'è stato finalmente un po' di silenzio. E il dottore ha preso la parola per dire che è una buona cosa se si inizia a parlare subito. E che la prossima seduta sarebbe stata la settimana successiva, alla medesima ora. Poi uno, ma non saprei chi, ha fatto una battuta che non ho capito bene. Ma tipo sul fatto che bisognerà decidere chi parla ogni volta, perché un'ora per 7 è un po' poca. E qualcuno, mi pare forse Alessandra, la scultrice, ha risposto che sì, era poca, ma che si poteva anche ascoltare quello che dicono gli altri, no? Qualche volta. E lì nessuno ha detto più niente. Ecco, mi sa che è stato lì che hanno capito che la psicoterapia di gruppo non è vomitarsi addosso le proprie convinzioni sperando di essere capiti dagli altri, ma averci a che fare veramente con gli altri. Anzi, provare ad imparare a farlo, che è molto più difficile di quello che sembra. E non basta un sorriso o un caffè al bar, e nemmeno buttarsi addosso tutte le proprie sfighe. No, è una cosa molto più noiosa, complicata. Insomma, è la vita. Io prima a fatica sono uscito dal gruppo degli scout e poi recentemente dalla squadra di calcetto. Samuele. 800240024 oppure 349-238-6666. Si parla di gruppi da cui si è fuggiti. Sono fuggito dal gruppo di lavoro di un franchising immobiliare. Era come una setta religiosa. Roberto, ma non c'entra con quelle cose piramidali però. Come sono le cose piramidali che tu porti 9 persone, ciascuna di queste porta altre 9 persone? Chiunque sappia come funzionano queste cose, se mi scrive un messaggio o mi chiama magari 800240024 oppure 349-238-6666. Sì, ce ne sono diversi, però non ho mai capito come funzionano. Nel senso che c'è qualcuno che guadagna da quelli sotto, cioè tutti guadagnano. Perfetto, Paolino Corleone ha detto giusto. Ho lasciato uno dei peggiori gruppi sociali. Ti opprime, provi fastidio e ti deprime. Facebook, la maggior parte dei frequentanti ha problemi. Non che io non ne abbia, non ho quel tipo di problemi lì. Guarda, io penso che Facebook, come per la strada, sia pieno di gente che ha problemi e che non ne ha, banalmente. Un po' come il tizio che qua ieri io e Tiziano Bonini abbiamo visto vomitare per strada mentre camminava, serenamente. Magari lui non era su Facebook, però dei problemi ce li aveva. Per adesso resisto nel gruppo della mia psicologa. Ciao Chicco da Pisa, non dire il nome. No, Chicco, dovete scriverlo prima se non devo dire il nome, altrimenti lo leggo in fila e lo dico. Ma sarà finto, spero. Uscito dal gruppo del liceo per andare a fare l'università da solo. Uscito da un altro gruppo per andare in vacanza da solo. Uscito da un lavoro che non mi esaltava. Per fare che? Tutte le volte la mia vita è migliorata. Mi dica Cindy Lauper per questo, grazie a Tiziano Bonini. E poi oggi sul profilo Facebook, che vi ricordo è sempre quello, Matteo Caccia, io sono qui. Mi scrive Luca. Un amico faceva parte del Rotary. È una persona in gamba, pensavo che invitandomi a far parte di quel gruppo di rotariani sarebbero stati in gamba pure loro, ma purtroppo, venuto lì per vedere che tipi di attività o di volontariato svolgessero, ho avuto una sorpresa. Pronto Luca? Sì, pronto. Ciao, come stai? Bene, bene, tutto a posto. Grazie. La prima volta in radio, allora... Guarda, chi lo dici? Capita a tutti prima o poi, capita a tutti Luca una prima volta in radio. Però sei un po' nervoso Luca? Un pochino, sì. Fai un bel respiro. Ok. Bravissimo. Fatto. Dove sei Luca? Allora, sono fuori dal lavoro, mi sono preso un gelato appunto per chiamare, perché cazzeggiavo prima su Facebook. Vedi, hai già detto cazzeggiavo, la radio non si fa, Luca. Ah, scusa. Giusto per farti salire l'ansia. Scusa, che lavoro fai? Lavoro in una ditta che fa impianti. Impianti di che tipo? Petroliferi. Petroliferi, benissimo. Com'è il periodo? Buono? Ce ne sono stati di migliori. Diciamo. Luca, allora veniamo a Rotary. Allora, tu vieni invitato da un amico, perché questi gruppi funzionano così, giusto? Che devi essere invitato? Ma non necessariamente, no. Se ti interessano fanno una miriade di attività, tra cui anche tantissimo volontariato. E tu fai irruzione in un Rotary una sera durante una cena no. E dici voglio farne parte. No, beh, o ti trovi lì per caso fortuito, perché non so, magari... A Rotary? Com'è che fai a trovarti per caso fortuito a Rotary? Ma di solito, allora, per i giovani funziona che di solito lo fanno nei locali, perciò tu ti interessi, magari hai un po' la faccia sfacciata di chiedere. Senti, ma Luca, tu adesso ne fai parte di questo gruppo? No. Mi sai dare una spiegazione? Perché io non, cioè, ci sono sempre passato tangenzialmente. Mi sai dire esattamente che cos'è Rotary? Ma il Rotary nasce come, allora, da quello che ho ben capito dalla storia, nasce come un gruppo fatto da questi tre gentleman che decidono di aiutare il prossimo con i mezzi a loro disposizione. Adesso non mi ricordo più quando nasce, però era recente. Ma però adesso le attività che fa, veniamo al dunque, tu credevi di fare qualcosa di volontariato, immagino, e invece? Sì, avevo chiesto per lavorare nelle ONG, un po' come... Ma scusa, ma per lavorare nelle ONG passi da Rotary, Luca? Ci sono anche molte attività che fanno, sì, sono veramente nel sociale. Ma scusami, ma Rotary è una ONG? Il Rotary fa volontariato, fa dei progetti di sviluppo, di cooperazione. Perché io ho sempre invece l'idea del Rotary di persone molto eleganti che fanno delle cene in dei locali, però evidentemente mi sbaglio. No, c'è anche un'attività... Qual è il simbolo del Rotary? Il leone è un altro. Sul sociale. Qual è il simbolo del Rotary? Una ruota? Una ruota, un ingranaggio. Va una bene. Ruota fatta di ingranaggio. Luca, io purtroppo devo mandare la borsa, quindi chiudiamo. Loro che attività ti hanno proposto? Allora, ma un'attività praticamente... Io chiedevo delle ONG e questo qua mi diceva sì, guarda, io sono... A me piace tantissimo la guerra. Guarda questo opuscolo. Mi faceva vedere foto di carri armati, gente con il soft air, praticamente armi... pistola ad aria compressa che si ammazzava praticamente. Si sparava. Non sei entrato a far parte del Rotary, mi sembra di capire. No, magari era la persona sbagliata con cui interfacciarsi per... Va bene, guarda, adesso io cercherò in questa pausa di capire meglio che cosa fanno quelli del Rotary anche delle persone che sono in ascolto. Nel frattempo ti ringrazio e ti faccio tornare al lavoro. Luca, ce l'hai fatta! Grazie. Grazie, grazie. Ciao, Matteo, buona giornata. Complimenti, anche a te, non sei niente male. Andiamo alla borsa e poi io sono qui. Non scegli niente che non abbia già deciso il gruppo. Ogni gesto che fai è pensato per lasciare le cose così come stanno. Devi diventare intelligentissimo e sempre critico. Oppure puoi mandare a fanculo la società e andare a vivere sui monti. Ma io non ce la faccio. Ho bisogno di certe comodità. Io sono qui. Nella foto di oggi invece siamo in Australia. Questo credo sia uno dei, dei pochi skyline australiani che riconosco, insieme alla città di Sydney e l'Opera Hall, l'Opera Theatre, come si chiama? L'Opera House. C'è un... il protagonista ha una bella faccia sorridente. È un uomo sulla cinquantina con un cappello in testa da... Direi da cowboy, ma credo australiano, perché di solito sono lì, sono sui posti che si comprano i gadget come questo. Ha una bella borsa a tracolla, camicia bianca un po' tirata sulla pancia, jeans e scarpe da trekking. Cioè, perfetta tenuta turistica. Sotto i suoi piedi c'è la terra rossissima, il cielo è plumbeo, l'erba è verde e in fondo quella roccia che tutti conoscono, rossa, che sembra un pugno. Daniele Pasetto, 48 anni, Uluru in lingua aborigena o più conosciuto come Ice Rock Red Center, Australia. Io sono qui. Bravo Daniele. Oh, io sono qui, @radio24.it, per continuare a mandare le vostre foto, oppure se volete caricare sul profilo, il profilo Facebook è quello, è Matteo Caccia, io sono qui. Usciti da gruppi che non sopportavate più? Sono uscito da un gruppo di amici appassionati e accaniti giocatori di giochi in scatola. Il bello è che adesso sono single e libero. Sergio da Verona. Cos'era? Era una cerchia dei disperati, gente che si trova per giocare ai giochi in scatola. Io e mio fratello Gianmaria torniamo a casa dalla scuola elementare di Vaggio. Noi siamo qui. Ah, questo non c'entra. Semplicemente, perdonatemi, ho letto un messaggio a caso. Mi muovo per fare vacanza da solo. All'inizio mi sento in difficoltà, ora meno. Niente, questo è tu, Stefano, sei uscito dal gruppo della società, mi sembra di capire. Giulio, sono uscito dal mio gruppo di archi. La prof a Vicenza, violoncello a Trieste, la violinista al conservatorio di Milano. Poi mi ricordano che il multilevel marketing si chiama quella roba lì di vendere roba. Gian Piero mi scrive: un mio amico mi aveva proposto di diventare promotore e venditore di prodotti per lo sport e si guadagnava portando nel gruppo 5 persone facendo loro comprare i prodotti. Sì, però poi queste 5 persone diventano a loro volta promotori, fanno comprare e tu ci guadagni, più o meno, credo. Credo sia una roba del genere. Oggi però mi era arrivato un altro messaggio prima della diretta. Daniele è fuggito 3 anni fa dal gruppo scout di cui faceva parte. Pronto Daniele? Pronto. Senti, ma perché? Forse è perché ho dato questo tono al messaggio. Però sembrava che il gruppo scout fosse una setta, da come ne parlavi. Oddio, no, non è che fosse una setta. Bravo. È che... Qual era il tuo totem? Sicuro, ok, riccio affettuoso. Ricordiamo che per chi non ha frequentato il mondo scout come qui presente, ma che si è avvicinato grazie alle sue frequentazioni, il totem è, vuoi spiegarcelo tu che cos'è Daniele il totem? Oddio, totem, com'è che te lo posso spiegare molto terra? Te lo dico io, è un nome insieme a un aggettivo che identifica le qualità umane di quella persona. Che bello. Giusto? Per esempio, ricordiamo per tutti quanti che gli ex scout Tiziano Bonini e Paulino Corleoni erano Orso Laborioso e Tiziano, non me lo ricordo, dimmelo nell'interfono, ti prego, Capriolo Sapiente. Benissimo, manca solo Vittoria Mussini, che però non c'è più d'altra parte, quindi la vita dà, la vita toglie, ma salutiamo Vittoria Mussini, anche lei. Senti, perché sei uscito da questo gruppo scout? Cosa c'era di opprimente, Daniele? No, ci sono stato per 8 anni, poi ho fatto 3 anni sempre in questi 8 di capo proprio, e fatto sta che ho conosciuto una ragazza di Pistoia, sono di Firenze, quindi c'erano 30 chilometri di distanza, sentivo anche il bisogno di uscire, di andare a trovarla. Ma scusa, ma il gruppo scout in questo te lo impediva? Non è che lo impediva direttamente, però 3 riunioni a settimana si andavano bene, una volta al mese di uscite si andava bene, il fatto che poi comunque il gruppo scout era anche il mio gruppo d'amici. Ho capito, quindi muoversi, allontanarsi ha sgretolato un po' tutto. Daniele, ti sei sentito più forte, ti sei sentito emancipato dall'uscita, ricordiamolo, Firenze 4, come si chiamava? No, oddio, Firenze Settimo, spero, non mi sento. Firenze Settimo, benissimo, tanto ormai l'abbiamo detto. Vabbè, tanto ormai fatto. In che squadriglia stavi, mi chiedono di là dal vetro, Puma, Aquile? In squadriglia? No, sono entrato più tardi. Dopo la squadriglia. Ma anche adesso basta di parlare di robe di scout, perché diciamo tutto il mondo che non è scout non sa di cosa stiamo parlando. Solo una cosa, Daniele, ti sei sentito emancipato? Meglio o peggio? Lì per lì, così, poi dopo col senno di fuori, molto bene. Daniele, ti ringrazio molto, ti auguro una buona giornata. Grazie. Ciao, alla prossima, grazie. Andiamo a Firenze, cioè rimaniamo a Firenze da Cristiano. Pronto Cristiano? Cristiano, direi il tuo nome è identificativo perché tu sei uscito da un gruppo spirituale dopo 5 anni. Sì, dopo 5 anni. Che gruppo era? Allora, il gruppo, non lo vorrei definire precisamente, comunque un gruppo buddista di buddismo giapponese, sì, che si è molto diffuso in Italia e a Firenze in particolar modo. Sì. E io sono uscito perché ho ripreso in mano la mia vita, ho deciso di liberarmi da che in realtà questa è una pratica anche molto interessante, anche molto bella per tante cose. Ma cos'è che ti pesava però, Cristiano, perdonami? Mi pesava il fatto che non mi sentivo più libero, non sentivo che riuscivo più a parlare quindi... qualcosa in maniera aperta, live, pulita e trasparente, senza che ci fossero tutte queste sovrastrutture. Ma adesso perdonami Cristiano, perché ti devo salutare, tu frequenti qualche altro gruppo religioso o sei... Ho frequentato per 2 anni ancora un gruppo gnostico e poi sono tornato all'ecismo. Benissimo. Ho fatto depressione un anno. Benissimo, si passa sempre attraverso quella più o meno, Cristiano. Guarda, ti ringrazio, ti devo salutare e andare per l'ultima telefonata, perché c'è un ex rotariano al telefono, Gianni. Pronto Gianni? Pronto. Ciao. Ciao, tu sei uscito? Io sto benone, grazie. Sei uscito dal Rotary? No, io sono uscito per un motivo personale, niente di particolare. Io volevo semplicemente dare un contributo. Quindi tu, Gianni, tu sei un ricco signore milanese con la sua Jaguar a queste cene in giacca? Ti spiego come funziona. Dimmi. In merito anche a quello che ha detto il precedente. Abbiamo una trentina di secondi, Gianni, pur non vorrei deluderti. Non sono cene dove indubbiamente si fanno delle cose molto molto serie. Fai conto che la polio plus, che è una la poliomielite, sai che cos'è? Come è stata quasi debellata completamente grazie a Rotary. Grazie a Rotary. In tutto il mondo il simbolo del Rotary è una ruota. Ed è stata nel 1800 e qualcosa in America. Gianni, scusami, quindi perdonami, diciamo a finalità filologiche, no? Filantropiche, perdonami, che filologiche. Altruistiche. Senso, però, personali. Chiaro, non personalistiche. Però solo una cosa volevo capire, chiaramente ti capita di incontrare delle persone che fanno altri lavori e con le quali ti capita poi di concludere degli affari, magari di avere altre cose in comune. Non è quello la finalità. Non parlo della finalità, parlo solo di una cosa satellitare che però può succedere. Può succedere, sì, può succedere. Per esempio, non so, se io ho bisogno di qualche cosa, magari... Hai bisogno di un idraulico e c'è un idraulico a Rotary? Beh, questo no, non dentista, c'è un commercialista. Un commercialista. Ho bisogno di un commercialista, ho bisogno di un avvocato. Benissimo, benissimo. Posso dire, dammi un nome di un penalista. Dammi chiaro, questo perfetto. Perfetto. Allora direi, chiudiamo Gianni con più idraulici e più tecnici a Rotary. Grazie mille, buona giornata. Ciao, grazie. Abbiamo tempo per chiudere, sì, abbiamo tempo per leggere il passaggio finale, perché stiamo facendo questa raccolta di racconti. Vi ricordo, siamo al Salone del Libro, tutta quanta la redazione, il 12 di maggio, che è un giovedì. Alle 4 siamo là in diretta e stiamo raccogliendo dei racconti di una pagina che voi dovete scrivere con le vostre manine, battendo sul computer. Io sono qui, @radio24.it. Una pagina, non di più. Un racconto che vi racconti. Un racconto che racconti qualcosa della vostra vita. Un episodio particolare che meglio dice di voi, di questo periodo. Io sono qui, @radio24.it, oppure a mano al Salone del Libro. Questo pezzo è un pezzo che si intitola Le cose che ti cambiano ed è di Luisella Mazza. Chissà quante ore, giorni o mesi ho passato a pensare di voler essere diversa da quella che ero, a desiderarlo con tutta me stessa, a chiedermi come faccio a cambiare. Poi un giorno, un lunedì pomeriggio, tornando a casa dal lavoro, sento nell'aria qualcosa di diverso. Una vicina di casa mi viene incontro spiegandomi che è appena stata a comprare alcune cose per mia madre e gliele sta portando su in casa. Mi prendo sotto braccio e dice: andiamo. Ma cosa vuole questa? Che l'hai preso? Non è mica inferma mia madre, poi non sono neanche così amiche. Mentre saliamo i 3 piani di scale, lei farfuglia cose strane a proposito di mio fratello. Mi dice che è in ospedale, ma che devo stare tranquilla. Ecco, lì è scattato l'interruttore. Quel cambiamento di cui non ti accorgi subito. Sei così sprofondata nel dolore che non vedi chi stai diventando. Vivi ogni momento pensando solo a... speriamo di riuscire a dormire, a mangiare, a respirare. Tutto il resto non conta. Certo, passa, ma intanto tu non sei più tu. Il ragazzo di cui sei innamorata è un'entità che non riesci più a sentire e non riesci a capire come il resto del mondo possa ancora ridere, arrabbiarsi, avere voglia di una vacanza, di un gelato. Nulla traspare, tu sei sempre tu. Non piangi davanti agli altri e cerchi di vivere nel momento, faticosamente. Ma oggi, 24 anni dopo, continui a pensare che l'energia vitale se ne sia andata con tuo fratello e che le cose che ci cambiano profondamente non dipendano dalla nostra volontà. Io sono qui, @radio24.it. Domani non lo so, ma oggi io sono qui. E voi, dove siete?